Ma guarda, c'è un antico detto che dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e qualcuno in mezzo al mare ha perso la navigazione, ha perso la bussola. Chi è che ha perso la bussola in questo caso è il ministro dell'Ambiente Costa, Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che durante la campagna elettorale avevano promesso di fermare le trivellazioni. Sta di fatto che loro hanno giurato il 1 giugno del 2018 come ministri della Repubblica e solo dopo le nostre denunce di Verdi come Verdi, che è scoppiato il caso, loro sono corsi di pari con delle dichiarazioni. Allora la domanda è come mai hanno rilasciato questi tre permessi senza invece prima fare quegli atti normativi necessari e propedeutici per fermare le trivellazioni nei nostri mari, nelle nostre terre. Quindi non è solamente deludente il loro comportamento, ma per quanto mi riguarda è estremamente inquietante, e quindi da questo punto di vista devono delle spiegazioni forti. Insomma, oggi, insomma, in questi giorni il ministro Costa, dopo i nostri attacchi, ha detto che lui presenterà una norma in queste ore per fermare i 40 prossimi 40 permessi di ricerca. E però la domanda è spontanea: perché non l'ha fatto prima? Perché non hanno approvato una norma che consentisse di fermare questi permessi di ricerca attraverso un uso di una metodica devastante come quella dell'Airgun, che danneggia gli ecosistemi marini, l'orientamento dei cetacei e comunque sia ricerche petrolifere di fronte alle spiagge più belle d'Italia, quelle del Salento? Insomma, è un atto irresponsabile. E poi ci troviamo di fronte a una procedura che, per quanto ci riguarda, nel rilascio di questi permessi presenta dei dubbi forti. Chiaro, chiaro. E peraltro già il 10, erano 10 dicembre, erano stati firmati 18 provvedimenti per trivellare in Adriatico. Poi il Movimento 5 Stelle si è giustificato dicendo che erano cose già fatte dal governo precedente, ma quant'è la possibilità di opporsi di un ministero in queste situazioni? Molto forte, elevatissima. Se sei un ministro puoi riaprire delle istruttorie. Intanto precisiamo che con questa favola e barzelletta di Di Maio e del ministro Costa, che dice no, erano già autorizzati prima, se è vero questa affermazione allora non erano necessarie le autorizzazioni firmate dal Ministero dello Sviluppo Economico sul Mar Ionio, e non erano necessari quei pareri di ottemperanza. Insomma, sono ministri della Repubblica, dovrebbero usare un linguaggio di serietà, cioè se quindi erano già autorizzate, allora non erano necessarie quelle autorizzazioni. La verità è in realtà che quelle erano vere e proprie autorizzazioni. Per quanto riguarda la domanda, che poteri ha il ministro? Ad esempio, verifichiamo la vicenda del Mar Ionio, analizziamola. Nel Mar Ionio ci sono tre permessi di ricerca dati da una società americana. Se si andiamo, noi siamo, abbiamo analizzato tutta la procedura e abbiamo visto che la Regione Puglia aveva dato un parere negativo alla valutazione di impatto ambientale. È vero che il parere della Regione Puglia non è vincolante, ma è pur vero che le cose che la Regione Puglia ha scritto sono importanti. Ad esempio, che la valutazione di impatto ambientale nazionale non ha analizzato in maniera approfondita l'impatto sull'ecosistema marino e non ha analizzato il fatto che una volta avviate l'estrazione di petrolio, noi ci troviamo di fronte alle spiagge più belle d'Italia come il Salento e che necessiterebbe di una maggiore attenzione e valutazione per quanto riguarda un rischio di incidente rilevante. E allora, a norma di legge del cosiddetto codice per l'ambiente italiano, il ministro dell'Ambiente, quando si trova di fronte a fatti nuovi, come ad esempio una valutazione di impatto ambientale che non ha approfondito alcuni aspetti, può riaprire la procedura di valutazione di impatto ambientale. Lo prevede il codice per l'ambiente. E allora, da qui si vede il fatto che c'è o una superficialità o c'è altro che dovranno spiegarcelo loro o qualcun altro, insomma. Il ministro dell'Ambiente quindi poteva aprire la procedura di VIA e quindi a questo punto poteva fermare questi permessi di ricerca, anche perché se è vero che tra pochi giorni adotteranno un provvedimento che bloccherà altri permessi di ricerca, allora la domanda, come dicevo prima, perché non l'hanno fatto prima? Perché a questo punto i permessi nel Mar Ionio si sarebbero salvati e si sono salvati sul filo di lana, e questo è inaccettabile. Inaccettabile ancora di più perché viene da un movimento che in una delle 5 stelle c'è quella dell'ambiente, la stella che per quanto ci riguarda è ampiamente spenta da molto tempo. Sì, ed è proprio questo quello che ti volevo chiedere, infatti, perché il Movimento 5 Stelle ha costruito gran parte del proprio consenso anche su tematiche ecologiche, e invece abbiamo visto come già con il NOPTAP, Io penso che alla luce dei fatti di questi ultimi mesi Di Maio, Di Battista abbiano usato e tutti i leader del Movimento 5 Stelle abbiano usato l'ambientalismo come strumento di propaganda elettorale, mero strumento di propaganda elettorale per prendere voti, arrivare al potere e poi fare esattamente l'opposto di quello che avevano detto durante la campagna elettorale. È un problema anche etico, morale, di come si fa politica. Però facciamo degli esempi, uno l'ha citato, l'Ilva. Io personalmente ho scritto due lettere al ministro Di Maio, al ministro Costa, chiedendo di introdurre una norma che abrogasse l'immunità penale che è stata concessa agli acquirenti dell'Ilva. In nessuna parte del mondo esiste un'industria che opera con un regime di immunità penale nel caso della violazione della legislazione ambientale e sanitaria. Sembra di stare nel Medioevo, ma nemmeno. E purtroppo questo è accaduto e Di Maio questo lo ha confermato, non ha fatto nulla. Per non parlare poi, come diceva, della TAP, ma ad esempio il decreto Genova. Il decreto Genova è stata inserita una norma, quella sui fanghi tossici, che consente lo spargimento sui suoli agricoli di fanghi provenienti dalla depurazione che contengono diossine e anche PCB. Io voglio ricordare che i policlorobifenini sono una molecola altamente cancerogena che è stata bandita nel 1982 perché altamente cancerogena. E attraverso questo atto del ministro Costa si consente lo spargimento sui suoli agricoli perché non trovano modalità diverse per smaltire queste scorie dei fanghi di depurazione. Però quelli sono i suoli dove si coltiva il cibo che noi mangiamo. Per non parlare del condono edilizia, per non parlare ad esempio di alcune norme all'interno della finanziaria, non ultima, è passata in sordina ma gravissima, che sfascerà i centri storici del nostro paese, perché attraverso la vendita del patrimonio pubblico per fare cassa si consentirà ai fondi immobiliari e banche che acquisteranno i palazzi storici delle nostre città di poter fare tutto quello che loro vogliono e lo saranno loro a decidere cosa fare: destinazioni d'uso, demolizioni, ricostruzioni, mini appartamenti, centri commerciali, alberghi, cambiando l'identità storica delle nostre città. È un fatto di una gravità inaudita, l'ha fatto il Movimento 5 Stelle. E poi ovviamente questa cosa delle trivelle, potrei continuare su altre questioni. Quindi diciamo che sono arrivati al potere e in maniera immediatamente ne sono rimasti affascinati, dimenticando ciò che avevano promesso e ciò che dovevano fare. E il movimento NoTriv questa settimana si è rifiutato di andare al ministero a parlare con il ministro Costa. Credete che ci sia la possibilità di cambiamento rispetto alle politiche in atto o sia una causa persa? Bisogna vedere i fatti. Loro hanno, è da tempo che parlano, fanno annunci, ma fanno esattamente il contrario. Hanno detto che avrebbero fermato le trivelle e le hanno autorizzate, non solo nel Mar Ionio, hanno utilizzato una trivellazione e coltivazione di estrazione di gas e idrocarburi a Ravenna, in provincia di Ravenna, a Bagno Cavallo, in un'area a rischio sismico. L'hanno autorizzata loro, dicono che è un atto dovuto, ma lo hanno firmato loro, potevano fermare, potevano ulteriormente fare un'istruttoria, come dicevo prima. Quindi se avranno delle proposte da fare nelle prossime ore, valuteremo. Fino adesso ci sono state solo parole, ma i fatti invece però parlano al contrario, che loro le trivellazioni le hanno autorizzate.